tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Dopo il caso della Turchia, un altro fronte di tensione si apre tra la Russia e la NATO. Quest'ultima ha annunciato l'adesione del Montenegro all'alleanza Lira di Mosca. Italiani ottimisti ma non soddisfatti, dice l'Istat. Confcommercio vede la prima ripresa dei consumi da 7 anni. Ancora polemiche per i pagamenti bancomat sotto i 30 euro. Scandalo emissioni, perquisizioni nella sede italiana da Porsche a Padova. Volkswagen intanto raggiunge un accordo con le banche. Prestito ponte da 20 miliardi. Amministrative, il PD al lavoro sul nodo di Milano. Renzi ha incontrato Pisapia. Troppi messaggi offensivi tra studenti su WhatsApp e un preside di Parma decide di pubblicarli su Facebook e sul sito della scuola. Lo abbiamo intervistato, ci parleremo tra poco. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Veniamo in apertura ancora alle vicende internazionali e alle tensioni che si stanno incrementando a quanto pare tra la NATO e la Russia, perché dopo l'abbattimento la settimana scorsa del jet russo da parte della Turchia arriva anche l'annuncio da parte dell'Alleanza Atlantica dell'adesione del Montenegro, una scelta che ha suscitato la reazione dura di Mosca, che già nei mesi scorsi aveva espresso la sua contrarietà anche e non solo per il continuo allargamento ad est della stessa Alleanza Atlantica. Antonella Scott del Sole 24 Ore, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Allora, che cosa è successo e che cosa rappresenta tutto questo? Sì, è proprio così, come hai detto tu, è un fronte, un nuovo fronte che si apre. La Russia ora minaccia ritorsioni per l'invito che l'Alleanza Atlantica ha esteso al Montenegro, il piccolo paese dei Balcani diventato indipendente dalla Serbia nel 2006. Questa è un'area che la Russia considera era comunque sua sfera di influenza, quindi come per le passate espansioni della NATO nell'Europa orientale, Mosca reagisce con grande irritazione, le considera provocazioni, minaccia ritorsioni, cosa che oggi ha subito fatto Peskov, il portavoce di Vladimir Putin. È un fronte che si apre appunto mentre già in furia lo scontro tra Russia e Turchia dopo l'abbattimento del jet russo che secondo Ankara avrebbe violato lo spazio aereo turco il 24 novembre. E proprio ieri Mosca ha dichiarato una vera guerra economica alla Turchia, ha pubblicato la lista dei prodotti alimentari che Ankara non potrà più esportare in Russia dal 1 gennaio, poi ci sono tutta una serie di limitazioni che riguardano il turismo e il lavoro delle imprese turche in Russia. Però mi sembra che dato che il centro delle preoccupazioni comunque resta la lotta al terrorismo, la guerra all'ISIS in Siria, è possibile che questa emergenza sembra che possa lasciare spazio a tentativi di disinnescare la tensione. Così il ministro degli esteri russo Lavrov si è detto disposto domani a incontrare il collega turco, mentre sul fronte della NATO il segretario generale Stoltenberg oggi ha subito detto di essere pronto a riconvocare il Consiglio NATO-Russia che, ricordiamo, non si riunisce più dall'aprile 2014 a causa della crisi ucraina. E Lavrov ha detto che è pronto ad accettare l'invito. Ti ringrazio, grazie ad Antonella Scott del Sole 24 Ore per questo aggiornamento. Dunque, ancora di terrorismo parliamo, e ce ne ha parlato anche Antonella Scott, e del dopo attentati di Parigi. Oggi nel quartiere Molenbeek di Bruxelles ci sono state nuove perquisizioni in cerca di informazioni che possano portare ai super ricercati per le stragi del 13 novembre, che secondo alcuni sarebbero già in Siria, mentre resta in primo piano il tema di quale risposta militare dare. Oggi il Parlamento britannico voterà su eventuali bombardamenti all'ISIS, mentre anche in Italia il dibattito resta aperto, ma iniziamo proprio da Londra. 10 ore di dibattito, nervi tesi e contraccolpi politici per una decisione pesante per il Regno Unito con risonanza e conseguenze globali. Il Parlamento britannico vota oggi l'intervento militare in Siria che potrebbe dare il via ai raid aerei sulla roccaforte ISIS di Raqqa già nelle prossime ore. Il primo ministro David Cameron ha fatto appello alle Camere per intervenire contro quella che ha definito una minaccia per la sicurezza del paese. Di fatto, dopo gli attacchi di Parigi, il 54% dei britannici sarebbero per l'intervento in Siria, anche se nelle ultime ore si stanno moltiplicando le manifestazioni contro un'azione che potrebbe avere le stesse sorti di Iraq e Libia, minacciando civili e 70.000 ribelli non estremisti. La Gran Bretagna dovrebbe dispiegare un contingente aereo di ultima generazione, con missili estremamente precisi, per minimizzare perdite innocenti. Molti laburisti starebbero già con il primo ministro conservatore, che ha fatto appello di ignorare il leader dell'opposizione, Jeremy Corbyn, definendolo simpatizzante con i terroristi. Dopo il no incassato nel 2013, stasera dunque il primo ministro britannico potrebbe ottenere il voto favorevole del suo Parlamento, affiancando finalmente gli alleati Stati Uniti e Francia nella guerra al terrorismo. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Una conferenza a Roma entro l'anno sulla Libia. È questo l'auspicio espresso ieri dal premier Matteo Renzi, che ha insistito sulla centralità della questione per stabilizzare l'area. Un punto sul quale concorda l'ex ministro della difesa Arturo Parisi, intervenuto a Mix 24. È evidente che noi per qualsiasi intervento abbiamo bisogno di una condivisione più ampia. Da questo punto di vista lo strumento della conferenza di pace evidentemente è uno strumento tra molti, comunque è un passaggio che io ritengo utile. Mentre sulla questione Siria il premier resta prudente, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un'intervista al Corriere della Sera, ha accennato alla possibilità che l'Italia partecipi a operazioni di terra in Siria nel caso di un intervento internazionale. Non possiamo illuderci che altri facciano le guerre per noi, ha detto Berlusconi, che condivide la posizione di Renzi invece sul fatto che in Siria non si debbano ripetere gli errori commessi in Libia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla pagina economica, all'indomani dei dati diffusi ieri sulla disoccupazione, non particolarmente positivi soprattutto per quanto riguarda il numero di occupati, e i dati sul prodotto interno lordo che fanno temere che non si raggiunga l'obiettivo di una crescita dello 0,9% entro la fine dell'anno. Ci sono nuovi dati Istat oggi, il rapporto sul benessere equo e sostenibile, che indica che nel 2014 è cresciuto l'ottimismo degli italiani nei confronti del futuro, anche se non di molto. Dal 24% di persone sopra i 14 anni che nel 2013 ritenevano che la propria situazione sarebbe migliorata nei 5 anni successivi, si è passati al 27%. E sono di oggi anche i dati di Confcommercio che indicano un ritorno alla crescita dei consumi. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Focus della Confcommercio sull'imminente periodo natalizio. Il Natale 2015 è il primo con consumi in crescita dopo 7 anni di crisi, spiegano dall'ufficio studi di Piazza Belli. La spesa media per i regali aumenta del 5% rispetto al 2014, fino a 166 euro a testa. Gli italiani spenderanno per questo almeno 10 miliardi. Tutto risolto allora? Siamo tornati agli anni pre-crisi? No, dicono dalla Confcommercio, i volumi restano inferiori del 30% rispetto a quelli del 2009. Capitolo 13. E queste aumentano dell'1,2% rispetto allo scorso anno e valgono 39,4 miliardi. Di questi però 7,9 sono destinati al fisco tra ICI, IMU, TASI, tasse auto e canone RAI. Più coraggio sul taglio delle tasse, chiede allora il presidente di Confcommercio Sangalli al governo sulla legge di stabilità. Manovra che, lo ricordiamo, in commissione bilancio della Camera. Il governo ha depositato l'emendamento contenente il DL Banche. Il provvedimento entra in manovra senza modifiche rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri ed è finalizzato a tutelare la componente socialmente più debole degli investitori coinvolti dal recente salvataggio di 4 banche in difficoltà. Infine l'uso del bancomat per piccoli importi. Sostengo l'emendamento convintamente, dice il presidente della Commissione Bilancio Boccia. E da Roma è tutto. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede della Porsche a Padova. A quanto pare Antonino Padovese, buongiorno, collegato allo scandalo emissioni, è così? Sì, in effetti la Guardia di Finanza di Padova si è presentata questa mattina negli uffici della Porsche Italia, che si trova nella zona industriale della città del Santo. Stanno acquisendo la documentazione sui software installati all'interno delle auto della casa tedesca, software che misurano i valori delle emissioni del gas di scarico. La finanza si sta muovendo su mandato della Procura di Padova, che ha aperto un fascicolo per frode nell'esercizio del commercio, ma non si sarebbero limitate le fiamme gialle al blitz negli uffici della sede legale di Porsche Italia, che è appunto a Padova. Stanno perseguendo anche le abitazioni di alcune persone, pare dei manager, che risultano indagate, sul numero dei quali ancora non vi posso dare conferme. L'impressione comunque che la procura stia verificando se ci troviamo ancora di fronte a un altro caso Volkswagen. D'altra parte sappiamo che la Volkswagen controlla dal 2012 la casa automobilistica di lusso tedesca. Certo, vedremo come andrà a finire questa vicenda, sapremo altri dettagli dalla procura in giornata. Intanto proprio la Volkswagen avrebbe raggiunto l'accordo per il prestito ponte per gestire il Dieselgate, tutto questo all'indomani di dati sulle vendite negli Stati Uniti che segnano un vero e proprio crollo per la casa di Wolfsburg. Ci colleghiamo con Andrea Malan del Sole 24 Ore. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, mi sembra di capire che non sia definitiva questo prestito ponte, però siamo molto vicini. Sì, dovrebbe essere definito in settimana, sono 20 miliardi per un anno che dovrebbero servire al gruppo a superare appunto la fase più calda del Dieselgate, cioè a finanziare per esempio i richiami di oltre 8 milioni di veicoli in Europa, a pagare eventuali multe e costi eventuali addizionali. Il problema per Volkswagen è che il suo debito è stato declassato dalle agenzie di rating, ovviamente proprio a causa del Dieselgate, e quindi andare sul mercato in questo momento con un prestito tra virgolette tradizionale le costerebbe abbastanza di più, quindi preferisce la soluzione del prestito ponte di durata breve per poi, sperando poi di tornare dopo un anno a condizioni di mercato più favorevoli. Hai citato il andamento negativo delle vendite negli Stati Uniti, stamattina sono stati pubblicati i dati della Germania sempre a novembre e anche lì Volkswagen non va molto bene, la marca Volkswagen ha perso il 2% in un mercato che è cresciuto del 9%. E anche questo è un pessimo segnale appunto per la stessa Volkswagen. Intanto grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore, siamo alla politica con le elezioni amministrative che si avvicinano, i partiti che scelgono i candidati, quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per le scelte del PD su Milano. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Renzi ha incontrato Pisapia, no? Sì, proprio così, è appena terminato l'incontro tra Matteo Renzi e il sindaco di Milano Giuliano Pisapia a Palazzo Chigi, che ha commentato con un laconico bene l'esito del vertice. Al centro alle prossime comunali, l'orientamento del Premier e del PD è quello di tenere sul nome dell'ex commissario Expo Giuseppe Sala, una scelta che dovrebbe essere accompagnata da un manifesto a sostegno di Sala, e si parla anche di una tregua tra renziani e bersaniani. Pisapia dovrebbe sostenere il vincitore alle primarie. Francesca Balzani, indicata come scelta dal sindaco, si ritirerebbe se Sala dovesse scendere in campo, stessa sorte per Emanuele Fiano, ma adesso bisogna capire che cosa vorrà fare Pisapia. Nel centrodestra invece Matteo Salvini della Lega si dice disponibile al nome di Alessandro Sallusti e attacca su Sala. Prima di parlare di lui, dice il leader della Lega, vorrei che fosse spiegato ai milanesi e agli italiani qual è il buco di Expo. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento di politica. È finita la due giorni con i capi di Stato e di Governo, il vertice sul clima di Parigi prosegue con le vere e proprie trattative, quelle per così dire tra gli sherpa che poi mettono in campo le soluzioni tecniche. Cristina Carpinelli, buongiorno, appena tornata dal vertice, da COP21. Buongiorno Simone, come dicevi tu lavorano senza sosta i negoziatori tecnici che hanno in questo momento un ruolo chiave a Le Bourget a Parigi. Entro la fine di questa settimana infatti dovranno consegnare una bozza e poi dalla prossima settimana il testo sarà discusso invece dai ministri. Quindi a COP21 i negoziatori lavorano in un gigantesco padiglione che è suddiviso in tante aule, ogni aula ha una tribuna per i giornalisti e una parte dove stanno i negoziatori che è comprensiva di microfono e anche di un sistema per votare. Cosa succede? In ogni aula si tratta un tema, a volte è semplicemente discutere gli articoli di un testo e poi approvarli via via, altre volte da questi incontri nascono delle idee, delle iniziative. Ad esempio ieri c'è stata la giornata delle foreste, si è lavorato molto sul piano negoziale e si sono tenute anche delle conferenze, dei meeting a margine in cui proprio ad esempio gli abitanti delle foreste sono intervenuti a parte e hanno messo a parte delle loro istanze anche i negoziatori che hanno preso proprio queste istanze e le hanno fatte loro. Quindi questo è avvenuto anche per un altro grande tema, sempre ieri, gigantesco tema collegato ai cambiamenti climatici, il tema dei mari, degli oceani e più in generale dell'acqua. Chi rischia più di tutti sono le popolazioni che vivono sulle isole, in particolare del Pacifico, considerate davvero a rischio. Ieri, al termine di una serie di incontri, ad esempio, si è deciso di dare vita al patto di adattamento dell'acqua ai cambiamenti climatici e sotto questo nome lavoreranno 290 organizzazioni e porteranno governo, poi alla prossima conferenza sul clima, i temi trattati, gli obiettivi raggiunti e da raggiungere. Quindi si lavora così, si è lavorato così anche per le foreste, perché sono stati molti gli obiettivi raggiunti e presentati nel corso degli incontri di ieri, e si va avanti in questo modo. Il vero scoglio da raggiungere però resta l'accordo per contenere i 2 gradi di riscaldamento globale. Su questo fronte proprio ieri sera i negoziatori nicaraguensi hanno detto che non presenteranno un piano sui tagli su base volontaria, perché dicono questo metodo ucciderebbe, hanno detto loro, il concetto di responsabilità storica dei principali inquinatori del pianeta. Ultima notizia e poi chiudo. Notizia positiva invece: la Francia investirà 2 miliardi di euro per lo sviluppo di energie rinnovabili in Africa entro il 2020, questo ce l'aveva praticamente già un po' accennato ieri il negoziatore francese, però ha voluto che fosse Hollande a comunicarlo al mondo intero. Entro il 2020, quindi 2 miliardi per lo sviluppo di energie rinnovabili in Africa e 6 miliardi di euro nel settore della diffusione di elettricità, sempre in Africa. Per ora è tutto. E grazie a Cristina Carpinelli. Su questi temi, tra l'altro, torneremo più avanti. Abbiamo preparato un servizio sullo specifico negli Stati Uniti, per quel che riguarda gli Stati Uniti, perché su questi temi Obama ha ricevuto un voto contrario dal Congresso, ma opporrà il suo veto. Ci arriveremo tra un attimo. Intanto restiamo negli Stati Uniti per parlare della decisione del gran capo di Facebook, che decide di devolvere il 99% delle sue azioni in beneficenza. Si chiamerà Chan Zuckerberg Initiative, una fondazione per avvicinare i bambini all'apprendimento personalizzato, per la cura delle malattie, la connessione delle persone e la costruzione di comunità forti. Non è, tra l'altro, quello di Zuckerberg il solo caso. Sentiamo. Con la nascita della piccola Max, Mark Zuckerberg entra nella comunità dei tecnofilantropi. Spesso diventati ricchi in giovanissime età e grazie al loro grande talento indirizzano le loro attività umanitarie soprattutto alla cura dei bambini e alla formazione, via che ritengono privilegiata nell'eliminazione delle disuguaglianze. La fonte di ispirazione è Bill Gates, che aveva fondato già nel 2000 la Bill e Melinda Gates Foundation, la più consistente fondazione privata del mondo. In 15 anni ha portato oltre 30 miliardi di dollari. Tim Cook, il numero uno di Apple, ha annunciato che lascerà il suo patrimonio da 800 milioni ad associazioni benefiche. Jeff Bezos, numero uno di Amazon, e Jack Ma, fondatore del colosso cinese Alibaba, hanno annunciato la volontà di investire i loro soldi su idee che abbiano il potenziale di trasformare il modo in cui produciamo e consumiamo energia. Altri tecnomiliardari invece hanno sostenuto negli anni la Silicon Valley Community Foundation. Anche qui l'educazione tra gli obiettivi principali, con migliaia di borse di studio in decine di paesi del mondo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Ci ritroviamo subito dopo. Parleremo innanzitutto di questo nuovo fronte di tensione che avete sentito nei nostri titoli e del quale vi abbiamo parlato in apertura, tra la Russia e la NATO, in merito all'adesione del Montenegro all'Alleanza Atlantica. Poi ci occuperemo di questa decisione della Cassazione sull'applicabilità dell'articolo 18, delle modifiche all'articolo 18 alla pubblica amministrazione. E poi parleremo del preside che ha deciso di pubblicare su Facebook e sul sito della scuola i messaggi offensivi che sono intercorsi tra i suoi studenti. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Giorno. La NATO apre le porte al Montenegro, l'ira della Russia. Nel frattempo, sul fronte della lotta all'ISIS parla il segretario di Stato americano Kerry, che dice i membri della NATO sono pronti a rafforzare lo sforzo militare contro lo Stato islamico. Italiani ottimisti ma non soddisfatti, dice l'Istat. Confcommercio vede la prima ripresa dei consumi da 7 anni. Scandalo emissioni, ci sono perquisizioni nella sede italiana della Porsche a Padova. Amministrative e il PD al lavoro sullo snodo di Milano, Renzi incontra Pisapia. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. È proprio di mondo che parliamo e di queste tensioni che si incrementano tra la Russia e la NATO. Dopo il caso della Turchia, anche il caso del Montenegro. Per un'analisi di quello che sta succedendo e di come la leggono i russi, abbiamo in studio con noi Gigi Donelli. Gigi, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Sì, i russi non sono contenti, te l'avevo detto, non posso esimermi dal citare veramente una riga di Anna Karenina, quando il conte Vronsky, quello del tradimento, quindi il grande protagonista, a un certo punto dice alla sua amata: me ne vado, devo andare a aiutare serbi e montenegrini che sono i nostri fratelli e li devo andare ad aiutare contro i turchi. Ora sembra È letteratura, evidentemente, ma nello stesso tempo racconta di una sorta di circolarità della storia in cui i russi oggi vedono da una parte una NATO sempre meno difensiva, perché obiettivamente è questa la ragione storica della NATO, e sempre più operativa. Anche nei titoli che hai letto poco fa, Stoltenberg parla di maggiore operazione, maggiore mobilità. Per la Russia questo si traduce in una presenza minacciosa ai suoi confini. Certo, il Montenegro non confina con la Russia, ma storicamente rappresenta nell'ambito del blocco con la Serbia quei paesi di influenza, questo che sia legittimo o meno. Il premier Milo Djukanovic la vede diversamente ormai da parecchi anni, e le manifestazioni contro l'adesione del Montenegro alla NATO in realtà sono in corso da almeno un paio di mesi. Ecco, se poi associamo a questo il fatto che la NATO è estremamente mobile nell'ultimo anno ai confini con la Russia, mi limiterei a citare quell'enorme operazione esercizio militare avvenuto a maggio in Estonia, che di fatto ha trasformato l'Estonia nella più grossa base NATO sul confine russo, si capisce che ogni operazione suscita forte preoccupazione. Segnalerei che Stoltenberg poco fa, circa un'ora fa, ha mandato un messaggio alla Russia: parliamone. Penso che ne avranno parecchio di cui parlare, perché la tensione dal punto di vista russo è davvero a un livello molto alto che non si conosceva da tanti anni. E grazie a Gigi Donelli per questa analisi. Veniamo alla sentenza arrivata dalla Cassazione, secondo la quale alla pubblica amministrazione va applicato anche l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori nella modalità però modificata dalla riforma del 2012. Parliamo della riforma che porta la firma di Elsa Fornero. Saluto Giampiero Falasca, che è un giuslavorista, un avvocato che si occupa di diritto del lavoro. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, buongiorno. Che cosa rappresenta questa sentenza? Ha un'operatività oppure no? Allora, sì, c'è un'operatività immediata che parte da oggi, diciamo, e cioè che da oggi possiamo dire che l'articolo 18 nella versione introdotta dalla legge Fornero vale anche per i pubblici dipendenti. Questo non è una cosa di poco conto, perché la legge Fornero, molti se lo dimenticano, ma è la legge Fornero la norma che ha, diciamo, determinato il passaggio dalla reintegrazione sul posto di lavoro, quello che noi chiamavamo articolo 18, al risarcimento del danno come regola generale. Poi ci sono svariate eccezioni, ma la legge Fornero ha cambiato un po' di tempo. Ma il fatto che l'articolo 18 sia stato nuovamente cambiato, in questo caso con il cosiddetto Jobs Act, con l'ultima riforma del mercato del lavoro, non blocca questa decisione della Cassazione, per così dire? No, addirittura c'è un risvolto diverso. La Cassazione, siccome si occupava della Fornero, ha detto: guardate ragazzi, per la Fornero vale per il pubblico impiego, non sta scritto da nessuna parte che non vale. Con questo ragionamento, la domanda che ci stiamo facendo tutti è: ma allora, quando il problema si porrà sul Jobs Act, la Cassazione andrà, applicando lo stesso ragionamento, a dire che anche il Jobs Act vale per il pubblico impiego? Ma questo è un po' più fumoso, è un po' più da vedere. Quello che è certo, quello che ha detto la sentenza ieri, è che appunto già il nuovo articolo 18 della legge Fornero vale per i pubblici dipendenti. Un'avvertenza che è importante: la Cassazione è l'ultimo giudice, quindi interpreta le leggi, però non è la Corte Costituzionale, cioè potrà capitare domani che un giudice di primo grado o un'altra sezione della Cassazione diranno: no, io non sono d'accordo. Quindi questo purtroppo è uno dei motivi per cui il nostro ordinamento giuridico fa un po' acqua da tutte le parti. Non è da escludere che arrivi un altro giudice e dica: io la penso diversamente. Però, stando a quello che ha affermato la sentenza, ripeto, il nuovo articolo 18 della Fornero vale per i pubblici dipendenti. Grazie a Giampiero Falasca, giuslavorista dello studio di LA Piper, per essere stato con noi e averci aiutato a chiarire questo punto. Fa discutere l'allarme lanciato dal preside dell'Istituto Comprensivo San Vitale Salimbene di Parma, Pierpaolo Eramo, che ha invitato genitori ed educatori a vigilare sui fenomeni di bullismo che toccano i giovanissimi. Lo ha fatto in un modo particolare: ha pubblicato sul sito internet della scuola e sulla pagina Facebook della scuola una serie di conversazioni, naturalmente con i nomi coperti, con i nomi oscurati, che sono intercorse su WhatsApp tra gli studenti, e abbiamo raggiunto proprio Pierpaolo Eramo. Sentite che cosa ci ha detto. Ho deciso di pubblicarlo su Facebook, sulla pagina istituzionale della scuola e sul sito della scuola, perché diciamo che per un effetto di accumulazione, ossia quando si ricevono molte segnalazioni sempre sullo stesso tema, cioè diciamo uso distorto dei social, che sia Facebook, Instagram, WhatsApp, non importa, a un certo punto si sente che la misura è colma, poi le frasi che ho letto erano veramente troppo e ho pensato che sarebbe stato opportuno, diciamo, scatenare un po' un dibattito pubblico sul tema. Frasi offensive, per esempio, nei confronti di un bambino obeso e anche di altro tipo, mi sembra di aver capito. Ma sì, tenga conto che alla fine non importa la caratteristica fisica, è una scusa, diciamo, per esercitare questa micro violenza verbale che per dei ragazzini di 12 anni è un po' priva di significato, nel senso che loro usano parole grosse come devi morire, eccetera. In realtà quando tu poi li interpelli e gli dici ma perché hai fatto una roba del genere, loro ti dicono io scherzavo. Non hanno neanche la coscienza di quello che stanno dicendo, anche perché molto è preso dal mondo esterno, loro assorbono e ripetono senza pensarci. Il nostro compito è farli pensare ed è per questo che, visto che il problema è così diffuso, ho ritenuto importante scoperchiare un po' la cosa e farla vedere. C'è una carenza di controllo da parte delle famiglie? Allora, qualche volta sì, nel senso che io credo che il problema maggiore è un po' la mancanza di tempo, il fatto che uno ha mille cose a cui pensare, quindi magari non pensa che nel momento in cui il ragazzino ha in mano uno smartphone ha in realtà accesso a un mondo incontrollabile. E quindi qualche volta c'è una carenza, ma devo dire che è un mestiere difficile, nel senso che è quasi impossibile controllare tutto quello che uno può fare. Diciamo che l'importante è non perdere il contatto, rendersi conto che il problema c'è, dialogare coi figli, chiedere, capire, cogliere i segnali, cioè non lasciar perdere, non sottovalutare. Mi dice come hanno reagito i genitori alla sua decisione di rendere pubblico tutto questo? Hanno capito i genitori della mia scuola, e devo dire anche di altre scuole che mi hanno scritto, hanno commentato sul sito, eccetera, hanno capito che il mio obiettivo non era punire nessuno o prendermela con i genitori, eccetera. Cioè, hanno capito che io volevo lanciare un appello e l'hanno raccolto, nel senso che ho ricevuto molte testimonianze di sostegno e dicendo siamo pronti, noi ci siamo, molti hanno scritto noi facciamo così, nel senso che non esiste la ricetta universale per queste cose, nessuno sa come fare, però l'importante è parlarne e esserci, e devo dire che questo è stato colto immediatamente. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo come sempre per fare il punto su quello che succede sui mercati e nella seconda parte della trasmissione andremo a Roma con due questioni che arrivano da Roma, una di livello un po' più nazionale se vogliamo, perché è in corso in questi minuti la presentazione della sala operativa del Giubileo e ci faremo raccontare com'è, e l'altra è una vicenda di cronaca terribile, un uomo malato di AIDS che ha contagiato 6 donne ed è stato arrestato per lesioni, ma i magistrati pensano addirittura che possa essere ancora più vasto il numero di donne contagiate. Noi appunto ci fermiamo, ci sentiamo tra un attimo per i mercati. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura vi diamo conto di queste dichiarazioni del vice ministro della difesa russo Anatoly Antonov, che accusa direttamente il presidente turco Erdogan e la sua famiglia di essere coinvolto nel business criminale del traffico illecito di petrolio proveniente dai territori controllati dall'ISIS. Si alza dunque lo scontro con la Turchia, così come si alza la tensione con la NATO dopo l'annuncio da parte della stessa Alleanza Atlantica della del Montenegro. L'ira della Russia è arrivata, dice stop alla collaborazione militare. I dati dell'Istat di oggi nel rapporto sul benessere, italiani ottimisti ma non soddisfatti, Confcommercio intanto vede la prima ripresa dei consumi da 7 anni. Lo scandalo emissioni, ci sono perquisizioni nella sede italiana da Porsche a Genova, la Guardia di Finanza intervenire su ordine della Procura, di Padova, su ordine della Procura di Padova. Volkswagen intanto ha raggiunto un accordo con le banche per un prestito ponte da 20 miliardi. La borsa. Invesco. Per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, l'ultima notizia, la più importante almeno di questa giornata, sembrano essere queste dichiarazioni del vice ministro della difesa russo Anatoly Antonov, che attacca duramente e direttamente il presidente turco Erdogan, lo accusa di essere coinvolto insieme alla sua famiglia nel traffico di petrolio con l'ISIS, un elemento che accentuerà la tensione. Ma adesso noi vogliamo occuparci di un caso di cronaca che arriva da Roma, dove un uomo avrebbe contagiato volutamente sei donne con l'HIV, avendo rapporti sessuali non protetti con loro e sostenendo di non essere sieropositivo, una vicenda sulla quale sta indagando la magistratura romana. L'ha raccontata bene la collega del Corriere della Sera, Ilaria Sacchettoni, che saluto e ci ha raggiunto al telefono. Ilaria, buongiorno, sì, e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, come è partita la vicenda? Con una denuncia di due paginette in tutto, fatta da una ragazza ai primi di questo del 2015, e questa ragazza è una donna di 25 anni, in seguito a un'analisi sulla sieropositività che ha certificato la sua, diciamo, positività all'HIV, si è presentata ai magistrati e ha spiegato quello che era successo. Aveva avuto una storia di un anno, una storia d'amore. Questo lo sottolineiamo, perché in questa vicenda la maggior parte dei rapporti sono stati, diciamo, all'interno di una relazione, quindi questo anche sembra un'assurdità, però è così. E questa ragazza ha raccontato di essere stata con un uomo di 30 anni e di aver avuto con lui rapporti non protetti, e ha dovuto raccontare, insomma, diciamo, la loro relazione, il menage, quello che accadeva, ovviamente anche, diciamo, un sesso assolutamente libero e, diciamo, esteso anche. E questo è. Il fatto si sarebbe quindi ripetuto almeno, ci sembra di aver capito, in area, altre cinque volte, nel senso con altre cinque donne, e però. Sì. Prego. Dal 2006 al 2014, secondo gli investigatori della polizia giudiziaria e il magistrato, questo Valentino ha avuto rapporti frequenti, diversi, intensi con donne, e solo sei al momento sono a conoscenza o hanno comunque si sono rese disponibili ad andare in procura e raccontare la loro storia, perché sei di loro avevano verificato la loro positività, eccetera. Su questo vale la pena di dire una cosa: se alcune di loro avevano già verificato di essere fatto il test dell'HIV, significa che lui in qualche modo alla fine aveva ammesso questa cosa. O meglio, l'ha ammessa, se alla fine o all'inizio, questo non saprei dirlo, bisognerebbe sentire a questo punto il suo avvocato. Comunque la posizione non cambia, ha contagiato queste donne, lesioni gravissime gli vengono imputate, ora è Regina Celi. Grazie a Ilaria Sacchettoni, giornalista e cronista e giudiziaria del Corriere della Sera, per essere stata con noi e per questo racconto. E noi restiamo a Roma per parlare dell'inaugurazione, dell'apertura della sala operativa dalla quale si terrà sotto controllo il giubileo, inaugurazione, apertura e presentazione alla stampa che c'è stata questa mattina e che sta seguendo per noi Giorgio Stamatopoulos. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno. Com'è questa sala? Raccontaci. Non possiamo proprio dire che sia la stessa di quella, per esempio, che si vede in un famosissimo film, Nemico Pubblico, ma ci si avvicina notevolmente. C'è una grande quantità di maxi schermi e di computer, è una sala operativa a tutti gli effetti che coordina un po' tutti i corpi interessati, dalla Polizia Municipale ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile. Si sono fatti un po' di numeri, ma né Gabrielli né Tronca si sono sbilanciati più di tanto. Diciamo che hanno istituito istituito comunque due graduatorie, una cosiddetta di safety, l'altra di security. Potete facilmente intuire la differenza: da un lato ci si occuperà soprattutto dell'afflusso dei pellegrini, dall'altro che tutto si svolga in norme di sicurezza adeguate. Per quanto riguarda la prima delle due categorie, l'8 dicembre, martedì prossimo, si partirà con il livello 2, ovvero ci si aspetta un afflusso tra le 50 e le 100.000 persone. Una raccomandazione su questo che hanno pregato a noi della stampa poi di diffondere ai cittadini è di non andare armati di troppi bagagli, perché questo potrebbe rallentare di molto le procedure di controllo all'ingresso di Piazza San Pietro, che comunque saranno meticolose e stringenti. Per quanto riguarda il livello di sicurezza, ovviamente sì, è il massimo, il quarto, certo, come potete immaginare. Certo. Allora Giorgio, abbiamo dato spazio anche a questa raccomandazione che arriva dalla polizia, insomma, posto che qualcuno si presenti con un baule a San Pietro, cosa che sarebbe piuttosto strana. Grazie intanto a Giorgio Stamatopoulos per averci aggiornato su tutto questo. C'è il traffico, Mario Platero, ci ritroviamo tra poco.